con Nicola Gerundino della rivista Zero per parlare dei vent'anni, della festa per i vent'anni della rivista al Quirinetta, sabato 27 gennaio, per 12 ore di musica a partire dalle ore 18. Nicola, intanto ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti. Allora, raccontiamo intanto l'esperienza Zero e come nacque questa rivista. Allora, Zero è nata nel 96 a Milano e un paio d'anni dopo ha passato la pianura padana ed è arrivata anche a Roma. Quindi proprio quest'anno c'è il ventennale, siamo precisi su questo. E, è nata come un free press, insomma, un free press tascabile che conteneva tutti i migliori appuntamenti della città in cui esce, appunto Milano, poi è seguita Roma, poi sono arrivate Napoli, Torino, Firenze, Bologna e da qualche tempo siamo anche in due città estere, Istanbul e Zurigo. Quindi, insomma, un bel network che ha anche qualche tassello al di fuori dei confini italiani. Senti, quali sono i criteri di sono stati e sono i criteri di scelta delle segnalazioni? Ma guarda, sostanzialmente i criteri non sono neanche troppo particolari, però tutto quello che vedete è perché è stato provato, visto, ascoltato. Insomma, noi andiamo in giro per le città sul serio e quindi tocchiamo e vediamo tutto con i nostri occhi e riportiamo quello che ci fa piacere condividere con i lettori, ma anche quello che non va, insomma. Non è che siamo solo dispensatori di elogi, ma anche di critiche. Però ecco, se posso dire una particolarità è che veramente tutto quello che trovate è perché c'è un'esperienza dietro. Senti, per la redazione romana, quante persone fanno riferimento al giornale? Allora, la redazione principale è quella di Milano, essendo appunto, come detto, Sì. un giornale nato a Milano. Qui abbiamo una redazione con 3 persone fisse, poi abbiamo una ventina di collaboratori che spingiamo più o meno tutti i giorni in giro per eventi, per luoghi, per anche incontrare persone, perché Zero anche parla delle persone che vivono le città, quelle che fanno cose all'interno dei confini cittadini. Senti, considerata la festa di sabato, è la musica il vostro settore più specifico? Vogliamo sì, perché due delle tre rubriche principali riguardano uno i concerti, l'altro il clubbing, che comunque alla fine sempre di musica si parla. Sì. Però diciamo che anche l'arte contemporanea e anche il bere e mangiare, perché appunto un'altra parte della festa sarà dedicata alla mixology, quindi ai cocktail, sono delle parti importanti. Però sì, se vogliamo appunto la musica forse è il nucleo principale ancora adesso. Ci parli un po' della serata a partire dalle ore 18 di sabato? Una bella maratona, si parte dalle 18 e si finisce alle 6, 12 ore filate e praticamente saranno come 12 feste in una, perché noi ogni ora cambieremo i DJ in due sale, cambieremo i barman che saranno al bancone del Quirinetta, quindi sarà proprio una staffetta, una maratona con tantissimi protagonisti, 40 bartender e 30 DJ, perché appunto abbiamo voluto invitare tutte le persone che in questi anni hanno vissuto la città e hanno realizzato eventi all'interno della città, quindi nessun grande ospite, nessuna guest star, ma i protagonisti di Roma tutti i giorni che sono poi anche i protagonisti delle nostre pagine. A parte questa festa del ventennale, ci sono scadenze che vi date in maniera fissa durante l'anno per incontrare i lettori? Ma no, diciamo se vuoi, se parliamo proprio di raduni tra i lettori, no, però durante l'anno ci sono tanti eventi che organizziamo in collaborazione con altri partner commerciali, quindi ci sono comunque momenti in cui Zero è presente proprio fisicamente all'interno delle varie città in cui siamo. Senti, cosa ami di più di questa esperienza? Di più, beh, forse che mi ha permesso di conoscere ancora meglio la mia città che già adoravo io prima di incontrare Zero, ma adesso abbiamo proprio una conoscenza molto più profonda, molto più piena e con occhi diversi anche. E devo dire che diciamo, l'innamoramento che ho avuto precedentemente è straconfermato. Senti, chiudiamo con i vostri riferimenti web per saperne di più. nostro sito è 0.eu e anche su Facebook ci trovate digitando 0.eu, c'è la nostra pagina e lì trovate tutte le informazioni per la festa. Allora, ricordiamo per la festa dei 20 anni di Zero, sabato 27 gennaio al Quirinetta, qui a Roma, 12 ore di musica a partire dalle ore 18. Nicola, un saluto, a risentirci. Grazie mille, grazie a voi e a presto.